Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Lunedì 8 marzo, buongiorno e bentornati a tutti i nostri ascoltatori per La Città e il Carcere, a Liberi Dentro e Duradio, il nostro programma che inizia dallo scorso anno e che vuole parlare, vuole essere un ponte tra il carcere e la città. Do innanzitutto il buongiorno ai miei ospiti, che sono Ilaria Voni, che è volontaria del Poggeschi per il Carcere e vicepresidente di Piazza Grande. Buongiorno e auguri per questa festa internazionale della donna, a te come a tutte le donne che ci stanno ascoltando. Buongiorno a tutte, grazie Caterina, auguri ricambiati anche a te ovviamente e a tutte le ascoltatrici. E al nostro Ignazio De Francesco, oggi da Montesole. Buongiorno e bentornato su Liberi Dentro. Buongiorno a te e a voi a tutti e a tutti. Allora, oggi la nostra cronaca bianca inizia dalla musica, perché c'è questa bella iniziativa, Rap dietro le sbarre per aiutare gli ultimi tra gli ultimi. L'articolo lo leggo da rollingstone.it, a firma di Marta Brumi Tipodi, perché un rapper ha scritto un libro che si intitola Barre, edito da Minimum Fax, dove Francesco Kento, che è proprio un rapper, racconta 10 anni di laboratori rap nelle carceri minorili. Lui dice: si entra per pochi crimini e non si esce quasi mai redenti, cioè nel senso si esce a fatica e con tante ferite addosso ancora, anche per i minori. E quindi lui dice: la cosa però che potrebbe stupire è che a fronte di così tante strutture carcerarie per minori in Italia, ce ne sono veramente estremamente tante in Italia, è comunque il numero dei detenuti in queste strutture è esiguo, cioè per fortuna i minori detenuti non sono così tanti, anche perché ci sono strutture alternative per la detenzione dei minori. E lui racconta questa esperienza decennale del rap in carcere, dice che la musica è importante per aiutarsi a liberarsi e a librarsi, ma è anche vero che comunque la musica ha le sue regole, che prima di essere disattese vanno imparate, che ci vuole serietà, costanza e dedizione per chi le osserva. E anche questa cosa interessante è che in carcere, senza smartphone e internet, la fruizione della musica è completamente diversa. Cioè pensate che i ragazzi hanno dei lettori MP3 dai primi anni 2000 che contengono pochissime canzoni e che ascoltano e riascoltano ossessivamente. Quindi pensate al potere proprio della musica anche per riuscire a non pensare sempre alla cella. E quindi niente, volevo raccontarvi questo progetto e adesso do la parola a te Ignazio, anche perché hai delle lettere sempre riferite alle nostre carceri e anche alla giornata di oggi, ecco. Sì, ma io vorrei iniziare proprio con un saluto particolare alle signore che ci ascoltano da qualche carcere della regione e anche del nostro paese, perché siamo visti poi anche al di là, attraverso la rete. E ho ricevuto due lettere da due persone, due signore mamme che si trovano attualmente detenute, due lettere veramente doloranti, addolorate, che raccontano della grande difficoltà di vivere questo momento con il Covid, cioè con le situazioni di chi va poi in isolamento perché è risultato positivo e quindi manca proprio di tutto, sono 24 ore in cella che non passano mai, mi dicono 4 giorni sono come 4 secoli, e anche un po' l'amarezza di sentire così certe volte un po' così di retorica: siamo tutti detenuti in questo momento per l'epidemia, la pandemia, dice, ma voi non vi rendete conto? E anche un po' di amarezza, devo dire, anche verso i volontari, chi cerca di prodigarsi, perché la sensazione di offrire delle cose quando si desidera solo una cosa, che è il bicchiere d'acqua della libertà. E allora, niente, vi diciamo che vi siamo vicine come possiamo, e mi avete fatto pensare a questa notizia che viene dall'Algeria, è stato lanciato un concorso nazionale, internazionale, per la fotografia degli uccelli migratori, perché gli uccelli cominciano a partire, milioni di uccelli migratori dall'Algeria e dal Nord Africa verso l'Italia, così come si ritorna in autunno. E allora questa esperienza della migrazione, dove si descrive poi l'uccello che parte, che va a tappe, si va in gruppo, si viaggia di notte, non è una sola volta, bisogna fare provviste, mi ha dato questa sensazione. Intanto che il nostro Mediterraneo per gli uccelli è il cortile di casa. Per loro sono due sponde assolutamente uguali, rondoni, falchi. E poi così vorrei vedere le due persone che mi hanno scritto volare un giorno libere, sicuramente lo faranno, come questi uccelli migratori, in un cielo alto, di una nuova vita, e poter essere noi ad accompagnarle anche in questo volo. Quindi, se mi consenti, Caterina, le dedico il primo brano di oggi, prendo certo. Altro tempo. Allora, questa settimana abbiamo una cantante tunisina, Amina Annabi, la conosceremo, una grande stella del canto tunisino tradizionale moderno, la conosceremo durante la settimana. Oggi ascoltiamo l'ultimo che ha parlato, che è la canzone con cui lei aveva vinto un importante premio all'Eurovisione del 1991. Ascoltiamola. C'est celle qui m'a donné un nom qui a raison. De toute façon, fille ou garçon, tous ces dictons sont des leçons. Ne dis pas non, le monde est ni mauvais ni bon, tu tombes pas rond. C'est sans raison, wow, wow, yeah. Rieccoci sulle note musicali di Amina Annabi. Continuiamo la nostra puntata di Liberi Dentro Edu Radio oggi in questa giornata internazionale della donna. E la continuiamo questa giornata parlando del nostro Galateo Arabo Internazionale, che l'altra volta, la settimana scorsa, aveva avuto per tema quello della gelosia, e oggi invece Ignazio. Oggi parliamo dell'invidia. L'invidia è un problema che abbiamo tutti. Se a volte si dice che la donna è più una cosa di genere, la donna è più invidiosa, ma semplicemente l'uomo la nasconde di più. La donna invece è capace di dichiararla. Nel pensiero arabo, islamico, è importante a tal punto che la si trova nella penultima sura del Corano, dove si dice a Dio, audu billah, minasheitain rajim, e poi dice min sharri hasiden id hasada, cioè dalla cattiveria di chi invidia. Quindi si chiede la protezione a Dio dal male dell'invidia, però il problema è che siamo noi a invidiare, siamo noi gli invidiosi. E allora questa settimana tratteremo questo problema, e c'è un primo passo, è la confessione di quello che uno fa, la confessione, il riconoscimento di questo male che ci portiamo dentro un po' tutti, il male dell'invidia. Ma lo vedremo durante la settimana. Grazie Ignazio, adesso do la parola alla nostra ospite Ilaria Voni, volontaria del Bozio per il Carcere, dicevo, e anche vicepresidente di Piazza Grande. E volevo chiederti, proprio perché a inizio puntata abbiamo parlato di giovani anche detenuti, e c'è un altro progetto che appunto è il Pogeschi per il Carcere, che riguarda i giovani, in questo caso non minorenni ma universitari, che dal 2006 entrano in carcere per incontrare le persone detenute. E volevo chiederti in che modo questa, diciamo, combinazione di incontro è vincente per favorire anche nelle persone detenute un pieno riconoscimento del proprio vissuto. Esatto. I giovani sono il cuore del progetto di questa associazione, che appunto ha un duplice obiettivo, come sempre poi quando si parla di volontariato, no? Non è mai un'azione univoca in una direzione, ma è sempre qualcosa che dà e restituisce a chi mette, diciamo, in campo il proprio tempo, le proprie energie. Quindi da un lato far conoscere ai detenuti che sono in una situazione appunto, di grande emarginazione e che spesso nei loro vissuti, nelle loro esperienze non hanno incontrato il volontariato. E quindi vedere dei giovani che danno il loro tempo gratuitamente è un'esperienza quasi scioccante, direi. Mi è capitato proprio personalmente che appunto, i detenuti si stupissero del fatto che andavamo lì a trascorrere delle ore con loro. E quindi questo fa proprio vedere il fatto che ci sia una possibilità diversa, no? Di relazione con gli altri, con le altre persone, con tra esseri umani. Dall'altra parte, è molto importante che i giovani, che soprattutto appunto noi abbiamo giovani studenti universitari e giovani lavoratori, ma soprattutto universitari. Per cui nel periodo della formazione, no? Così delicato, in cui appunto frequentando le lezioni, studiando, uno si forma la propria mente, no? Le proprie opinioni, eccetera. E il contatto con una realtà viva, concreta, come quella del carcere, permette di ampliare la propria mente, proprio il modo di vedere la realtà e dà una prospettiva diversa, appunto, proprio in quella fase così importante. Tanto che molti dei volontari dell'associazione delle volontarie sono studenti di giurisprudenza, proprio perché vedono in qualche modo vedono l'applicazione di quello che studiano poi nella dura concretezza di quello che è il carcere, no? I grandi concetti di giustizia, di pena, eccetera, lì sono carne viva. E quindi questo ti mette tutto in una prospettiva molto diversa. Grazie Laria, hai detto tante cose molto toccanti anche, su cui torneremo anche questa settimana, siccome sarai sempre con noi. E ora, proprio perché abbiamo parlato di rap e potere liberante della musica anche quando si è dentro un carcere, lancerei la musica di un altro cantante rap italiano, Jovanotti, O Vita. E noi ci rivediamo con i nostri ospiti domattina e seguiteci tra poco con Antonella Cortese per una bella intervista su questa Festa internazionale della donna. Qui non è il Mississippi e nemmeno Atlanta, ma non so che cosa c'è nella mia pelle bianca, che a 14 anni mi ha fatto sentire come nato a Hollis, Queens, ma sotto falso nome. Ho il passaporto italiano e un cuore mediterraneo, working class hero, con un amore spontaneo per la botte piena e per la moglie ubriaca, la base aerospaziale nel centro di Aracataca, Gabo Marquez, Valentino Rossi ed Happy Days, Diego Velasquez, stato ben fever, walk this way, e quando senti il richiamo della foresta è la mia musica e la tua festa. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Skip, skip, dive, socializza, ritmo mozzarella, pomodoro e con una pizza, supercalifragilistico e spiralidoso, uomo paleolitico d'impatto mostruoso. Non sono laureato ma posso insegnare ad Harvard, improvviso sul tempo meglio che al Village Vanguard. Ormai sono uno standard, un grande classico, quick stop, rock and roll, mister fantastico. Se esiste un dio, forse sì, forse no, boh, ma ascolto le storie, disposto a crederci un po', che siamo figli di qualcuno e resta tutto da fare. Non ho radici ma piedi per camminare. Come posso? Rieccovi, bentornati su Liberi Dentro e oggi, che è giornata in cui si celebra questa festa della donna, ma correttamente chiamata Giornata Internazionale della Donna, ne parliamo con Antonella Cortese, benvenuta su Liberi Dentro du Radio. Grazie, ciao Caterina. E ci tengo a presentarti perché tu sei docente, sei collaboratrice della Gazzetta di Parma. Parma, che è una delle città che ha collaborato sin dall'inizio a Eduradio regionale, quindi siamo molto molto contenti di averti qui con noi. Grazie, saluto tutti, buongiorno. Allora, Antonella, per tutte le generazioni nate dopo il 1970, l'8 marzo è conosciuta, una festa consolidata e festeggiata in tutto il mondo, ma ti chiedo, sappiamo realmente tutti qual è il significato di questa festa, di questa giornata di ricordo? Beh, abbiamo molte informazioni che nel tempo si sono trasformate, ma in realtà secondo me è anche interessante capire da dove viene questa giornata. E diciamo che ci sono varie teorie. Le più accreditate sono che l'istituzione della giornata della donna è stata decisa per commemorare il tragico incendio della fabbrica tessile a New York del 1911, dove purtroppo morirono più di 140 operaie. Questa, diciamo, è una versione dei fatti. E un'altra che è ugualmente interessante, invece, si riferisce all'istituzione della prima giornata nazionale, in questo caso nazionale della donna, nel 1909, su invito del Partito Socialista Americano, in memoria di uno sciopero strepitoso, enorme, di camiciaie newyorkesi che nel 1908 avevano rivendicato migliori condizioni di lavoro. È chiaro che il significato, il nocciolo è proprio in questo, la rivendicazione del proprio diritto di autodeterminazione, ma anche proprio di uguaglianza. E l'iniziativa poi viene ripresa anche l'anno successivo dall'attivista Clara Zetkin, che durante la seconda conferenza internazionale delle donne socialiste a Copenaghen riprese l'idea di fissare un giorno per questa celebrazione che doveva appunto celebrare e promuovere i diritti delle donne e contribuire alla campagna in favore del suffragio universale e delle rivendicazioni salariali. E, è interessante perché poi fu a Mosca nel 1921, durante la seconda conferenza delle donne comuniste, che si stabilì proprio come data l'8 marzo per tutti i paesi, in ricordo anche della manifestazione di queste coraggiosissime donne contro lo zar a San Pietroburgo nel 1917. Importante perché è una data in cui si dà inizio alla rivoluzione russa. E poi sullo stesso giorno, qualche anno dopo, nel 21, viene istituita anche la giornata internazionale della donna operaia. Ecco. Naturalmente, come dicevamo, dobbiamo aspettare molti anni dopo, come dicevi tu, siamo nel 1975, che è stato definito l'anno internazionale della donna, per ottenere il riconoscimento della celebrazione da parte dell'ONU, che dichiarerà proprio questa data, cioè l'8 marzo, come data per la giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle donne e per la pace internazionale. Quindi per fare un riassunto un po' di queste date, questa celebrazione si tiene negli Stati Uniti d'America a partire dal 1909 e in alcuni paesi europei dal 1911, in particolare dopo l'incendio bruttissimo fatto drammatico della fabbrica Triangle che coinvolse 123 donne e 23 uomini. E in Italia dal 1922, ma è soltanto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la liberazione quindi dal nazifascismo che questa festa assume una sua dignità così come la festeggiamo oggi, no? Esattamente, e le donne che si occuparono della ideazione, della realizzazione di questa particolare giornata sono le donne dell'UDI, Unione Donne Italiane, che si costituisce nel 1944 e dal 1946 in poi comincia proprio a proporre il festeggiamento. E poi anche ad utilizzare un simbolo floreale che è la mimosa. E l'idea infatti nasce dalla mente di Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei, che avevano già in uso di regalarsi un rametto di mimosa tra donne proprio per rappresentare la solidarietà, la sorellanza verso chi lotta per ottenere i diritti di cui godiamo adesso. E perché poi la mimosa, ci chiediamo? Beh, la mimosa è un fiore che fiorisce ovviamente a marzo, febbraio-marzo, un po' dipende dalle zone. E dopo tutto economico, si trova un po' dappertutto. Il giallo esprime la vitalità, è un po' il fiore della rigenerazione, il passaggio dall'inverno alla primavera, insomma, è altamente simbolico, nonché profumato, direi. E proprio in nome anche di questa sorellanza di cui hai parlato, ci tengo a chiedere a te quale brano vorresti dedicare a chi ci ascolta adesso? Beh, a pensarci a Aretha Franklin con Respect, che è un brano per me altamente energetico, evocativo e di speranza. E rieccoci, bentornati sulle note di Aretha Franklin, Respect. E stiamo parlando della festa internazionale della donna, e che è una festa con appunto con la nostra Antonella Cortese da Parma. E dicevamo che è una festa appunto celebrata in tutto il mondo, ma purtroppo bisogna veramente dirlo, è una festa associata anche alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita il 17 dicembre del 1999 e che cade ogni anno il 25 di novembre. Questo dato della violenza contro la donna, in particolare ora che è iniziata dall'anno scorso la pandemia, è un dato veramente in crescita, molto molto preoccupante. Pensate che nei primi mesi, 10 mesi del 2020, le donne vittime di omicidio sono state 91, quindi pensateci, una praticamente ogni 3 giorni, e quindi Antonella bisogna tenerle in parallelo, no, queste cose? Sì, sì, questi due, diciamo, queste due celebrazioni vanno strettamente a braccetto, perché purtroppo, e vorrei anche ricordare a questo punto un accadimento molto recente, c'è l'omicidio di Clara Ceccarelli, che è stata uccisa dall'ex compagno a Genova il 19 febbraio scorso, ed è stato un evento ancora più tragico di quello che normalmente può essere un accadimento del genere, perché Clara aveva già pagato il suo funerale e trovato un tutore per il figlio disabile, quindi era una tragedia annunciata. I dati sono veramente poco confortanti, perché nel mondo la violenza sulla donna interessa una donna su 3. In Italia il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza, o fisica o proprio sessuale. Le forme più gravi poi sono esercitate dai partner, quindi la violenza è domestica molto spesso. Quindi veramente una situazione da tenere sempre molto sotto controllo, e nel periodo della pandemia, come dicevi tu, c'è stato un aumento del 75% delle chiamate al centro antiviolenza, l'1522. Questo proprio rappresenta un campanello d'allarme molto forte, perché la pandemia costringe molte donne a vivere nelle mura domestiche, che possono essere veramente il luogo dell'incubo. Quindi non bisogna, diciamo, tenere separate le due cose, dopotutto è un unico momento. Certo, grazie, e soprattutto ricordiamoci allora, per noi che abbiamo in questo momento anche sia io che te, insomma, anche il ruolo molto difficile di essere giornaliste e donne e raccontare queste notizie, di riportarle anche con i termini giusti, quindi mai usare la parola raptus quando non è raptus, o dare sempre la parola ai perpetratori nelle interviste, cose che fanno esaltare magari più l'aspetto emotivo di gelosia o di violenza dovuta alla vendetta, perché no, sono omicidi veri e propri, come... come la parola stessa è generale per tutti i generi, per l'appunto. Sì. E quindi, per avere un brano che ci invogli ad andare avanti senza mollare mai, io lancerei Bob Marley, No Woman No Cry, quindi No Donna Non Piangere, brano del 1974, ispirato alla vita del ghetto, e incoraggio ad andare avanti e non mollare mai, perché alla fine tutto andrà bene. Senz'altro. Grazie. Grazie, ciao a tutti, arrivederci. Bentornati, rieccovi dopo aver ascoltato la nostra Antonella Cortese per parlare oggi della Festa della Donna, cui rinnovo gli auguri veramente a tutte che ci state ascoltando in questo momento. E vi ricordo sempre di scriverci a liberidentro.duradio@gmail.com oppure all'indirizzo postale Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna. I nostri laboratori vanno in onda sempre alle 17 su Teletricolore e oggi abbiamo il laboratorio di scrittura di AVOC. E noi ci rivediamo domani sempre qui a Liberi Dentro. Ciao!